Blu Radio Sera. Rieccoci ancora qui in diretta nelle frequenze di Blu Radio Veneto. Questa è la voce di Agostino Spolavore, che anche questa sera ovviamente non poteva mancare con il suo fedele compagno. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Ben ritrovato anche a te. Grazie, ci siamo visti ieri sera mi pare. Sì, in effetti sei ormai una compagna, un compagno, cioè, è ormai incredibile. Allora, buonasera da Blu Radio Veneto. E questa è giovedì, ovvio, è il programma dedicato al live, come da un po' di tempo a questa parte. E ho preso il posto della musica dal disco, ma insomma facciamo live. Questa sera abbiamo una band che viene da Roma, li presentiamo tra qualche istante. Sono gli Elena, sono veramente molto fiero di averli qui. Però prima i nostri dati tecnici, cioè i nostri numeri telefonici con in studio, lo 049 875 6423. Mentre per quanto riguarda i vostri sms, vi ricordo, è il 346 23 20 033. Il nostro sito www.bluradioveneto.it, lì ci potete ascoltare in streaming 24 ore su 24. Quindi potete anche leggere e vedere le informazioni riguardanti la nostra regione, ma anche recensioni sugli emergenti, sugli artisti e anche su tante altre, tantissime altre cose, anche fatti di cronaca. Insomma, abbiamo un sito ben abbastanza completo. E poi ancora le nostre pagine di Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, e l'altro invece è Blu Radio Veneto Rock Wave. Lì è dedicata interamente alla musica rock, gestita dal nostro direttore artistico, che vi ricordo sempre per l'ennesima volta che il giovedì dopo di questo live succederà con la sua musica rock, la sua classifica appunto di musica rock. Credo di aver detto tutto. Le nostre frequenze le diciamo: 88 700 94 600, per chi ci ascolta via radio. E beh, a questo punto bisogna presentare questi amici. Maurizio, per me sono amici, perché poi c'è una confidenza con la Roberta, che è qui venuta a trovarmi con loro, che è una cosa pazzesca. Ma insomma, sono veramente dei grandi, grandissimi amici. E poi sono una band che sta nascendo, tra virgolette, mi passate questa parola, sì. Ha appena fatto un disco che non è ancora pubblicato, noi abbiamo l'esclusiva, però l'hanno già proposto in uno show acustico, o no, show proprio totale, proprio con proprio tutti gli strumenti, bene, non mi ricordo mai, aiutami, al Blackout, grazie Roberta, giù a Roma, sono qui, sono gli Elena, ciao ragazzi. Ciao, buonasera. Parlate vicino ai microfoni, sennò altrimenti non vi sentiamo. Allora, cosa mi raccontate di bello? Ho fatto un buon viaggio intanto. Chi è che guidava? Tu, scommetto. Come sempre. Come sempre. Ti sei fatto 600 km per venirci a trovare. Ma ci fa molto piacere. Ma è sempre il batterista guida, C'è no, poco da no, fare. No, sì, non è quasi. Vero. Ma spesso volentieri nelle band c'è sempre il batterista che guida, non si sa perché. Questa volta. Diciamo che spesso anche il chitarrista si. Scusate l'interruzione, permettetemi. L'accezione non è assolutamente vera. Parla vicino, un po' più vicino. Ecco, no, facciamo presente che non è sempre lui che guida, insomma, no. Spesso e volentieri è quello che sta sbragato sull'ultimo sedile per del pulmino, Però insomma diciamo che ha guidato lui. Sì, ma lui guida sì, per pararsi ad andare, così al ritorno può dormire senza problemi, può fare la notte brava, diciamo, in qualsiasi posto andiamo. Però avendo il live da fare questa sera in acustico, un po' di stanchezza c'era. Vabbè, quello sì. Un po' di stanchezza ce l'ho. C'hai tutta la mia compassione. Grazie, gentilissimo. Allora, questo disco si chiama semplicemente come il vostro nome, Elena. Elena. Che vuol dire Elena? Poi tra l'altro abbiamo sentito telefonicamente l'altra volta, ce l'avete spiegato, ma se lo volete rispiegare. Certo, questa è la domanda che di solito facciamo al chitarrista, perché ha una... Ha una predisposizione alla risposta. Ha una bella risposta. Proprietà di linguaggio, quindi mi piace sempre ascoltare proprietà di linguaggio, non la sua risposta. È che semplicemente me l'hanno detta a me, hanno detto dilla tu. Per quello. Insomma, ci sono più versioni, ce n'è una seria e una che poi è meno seria. Fai una via di mezzo. Una via di mezzo è difficile. No, intanto il significato di Elena è preso dal nome della figlia di Zeus. Il suo significato è luce. Ci sembrava bello omaggiarla, perché tutto quello che abbiamo fatto, scritto e poi messo su questo disco è stato fatto di notte. Abbiamo rinunciato spesso al sonno e a quant'altro per scrivere quello che poi sentirete, insomma. Quindi dalla luce al buio, questo ci piaceva. La realtà dei fatti, ovvero quella un po' più effettiva, è che abbiamo fatto i bigliettini e è uscito Elena. Per quello. Una cosa democratica in ogni caso, sì. Assolutamente democratica. Sì. Beh, meglio dei pollici opponibili. Beh, era bello, bello. Era un probabile nome. Sì. È molto più semplice questo qua. Sì, di notte non scrivevamo solo le canzoni, ma anche i nomi del gruppo. Da chi è nata l'idea di questa formazione? Allora, l'idea della formazione, la vostra storia, insomma. Diciamo che si sono incontrati per primi Luca e Mirko, che sono il batterista e il chitarrista, per varie situazioni di cover band, tra sale prove varie romane. Dopodiché sono entrato io, mi ha chiamato Mirko, tra l'altro, perché ci conoscevamo da prima. E dopo quest'estate che abbiamo suonato in giro con altri ragazzi facendo cover, abbiamo pensato di mettere finalmente su una band originale, perché era siamo quello stanchi di queste cover, sì, era quello che ci piaceva fare, e quindi abbiamo chiamato Roberto al basso e Domenica alle tastiere. Sempre hanno risposto di sì, sempre con l'accettazione del nostro signore Mirko Mancini. Non col bigliettino stavolta. Non col bigliettino, assolutamente no. Diciamo, abbiamo fatto una ricerca tra tutti quelli che conoscevamo, e loro sono senz'altro i più bravi. Ecco, basta. Quindi questo è significativo. Bello. Sì. Bello questo. Allora, questo disco nasce da un'idea vostra, quanto capisco, cioè dal punto di vista musicale. O avete avuto qualche spunto, qualcosa dalla qui presente? Ma diciamo che all'inizio abbiamo anche collaborato col nostro produttore, che è il marito poi di Roberto, che salutiamo, perfetto. Sta a Roma, Mauro Matteucci. Ciao Mauro. E all'inizio ci ha dato una mano con qualche pezzo, poi abbiamo preso noi in mano la situazione, perché scrivere... Chi è che scrive maggiormente? Maggiormente scrive Mirko, il chitarrista, è molto molto bravo. No, vabbè, volevo fare una battuta, ma è meglio che non la faccio. Ma Mirko, tu scrivi i pezzi, praticamente li presenti agli altri della band, e poi come li organizzate, li smistate, li allargate, li rimpicciolite? Come fa? Allora, io spesso e volentieri mi presento con un'idea. È capitato su alcuni brani che arrivassi con il pezzo finito, ma solo per un caso, insomma. Sì, un caso, perché era un pezzo a cui tenevo particolarmente, e quindi era già finito con le parti per ognuno di loro. Però penso sia più utile, e con l'esperienza dico che è stato più utile, condividere magari una semplice idea, un giro di chitarra, oppure il semplice testo e la melodia, e poi dare a loro la possibilità di fare quello che sanno fare piuttosto bene. Sì, perché Elena vuol dire visione collettiva, di gruppo, praticamente. Esatto, e quindi sì, è fondamentale condividere la cosa, altrimenti sarebbe una cosa individuale, non è assolutamente così. Ma come nascono le tue canzoni, Mirko? Cioè, i testi, parlo. Beh, come nascono? Spesso e volentieri nascono dalle donne. Beh, quelle canzoni forse meglio riuscite sono quelle che vengono dal tormento, dovuto appunto all'emisfero femminile. Quindi sono esperienze... Sono esperienze personali. Spesso purtroppo personali. Senti, io vi rompo già il ghiaccio, facciamo ascoltare la canzone con la quale io vi ho conosciuti, che vi ho sentito tramite la Rai quella sera, sì, famosa, sì, che sì. Vi ho visti lì assieme alla nostra cara amica Sherita Duran, che è stata abbiamo intervistato anche noi qui da Blu Radio Veneto quella sera. Mi avete veramente colpito quella canzone. Perché, dimmi che non c'è? Allora, quella canzone è stata tra l'altro la prima canzone che abbiamo messo su, che abbiamo arrangiato, e quindi eravamo tutti entusiasti di come fosse venuta fuori, di come era uscita, e poi abbiamo iniziato a lavorare pesantemente anche su altri pezzi, però quello era il pezzo dell'inizio, quello al quale tieni di più. Quindi abbiamo girato il videoclip con l'aiuto dei registi Daniele Coluccino e Matteo Bodrugno, che il video ci ha portato tra l'altro in prima serata su Rai 1 tra 1500 videoclip, quindi non è che è stata proprio una sciocchezza arrivarci. E Dimmi che non c'è è una storia d'amore, si parla spesso d'amore perché forse è l'argomento anche più utilizzato nelle canzoni, e a volte veramente un semplice ti amo serve di più di tante parafrasi che poi non significano nulla. E Dimmi che non c'è è l'amore universale, tutti amano, tutti possono amare, ci sono delusioni, sì, ho visto momenti d'allegria. Il video però è un po' significativo. Il video è significativo, invece alla fine queste due donne, sì, noi parliamo di un amore universale, perché cioè, crediamo che arrivati nel 2012 ormai fare differenza tra quello che possa essere anormale o normale non ha veramente più senso. Dimmi che non c'è, Elena. Dimmi che non c'è. Niente che valga più di me. Vedi sto aspettando e non vivo più, perché adesso manchi. Dimmi che non c'è, ogni tua carezza fra le braccia mie, solo una certezza che non vivo più, perché adesso manchi, manchi, manchi. Ora basta amore, basta col dolore, per poi starti accanto, per non farti male, per non farti male, per non farti male mai. Ti ho vista fuggire, ti ho vista pregare, non riesco a pensare, dimmi che non c'è. Non c'è niente che sento dentro me, vedi sto lottando e non vivo più, perché adesso manchi, manchi, manchi. Cerca le parole, tutte le parole, so che stai aspettando, ora vedi amore non ho più parole, per restarti accanto, per non farti male, per non farti male, per non farti male mai. Radio Sera. Sì, adesso parliamo della costruzione del pezzo, perché nella recensione noi della redazione abbiamo scritto una pop ballad, sì, però con un inizio insinuante, non scontata. Mi interessava capire il perché di questo non scontato, questa chitarra che, Mirko, tu cominci ad ondeggiare. Dimmi. Allora, alla base di tutto questo c'è anzitutto il voler creare un crescendo, non fare un pezzo non per forza fuori dagli schemi, ma nemmeno uno di quelli tipici intro stroppo. Esatto, esatto, come parlavamo prima a microfono spento. Esatto, avvicinarsi comunque a una cosa che sia orecchiabile e comprensibile, però con un minimo di originalità. Insomma, siccome io sono piuttosto gocciuto, ho preteso di guadagnarmi dello spazio così con questa chitarra presa non in prestito. Sono molto, molto. Ho preso in prestito qualche tecnica imparata dal ben più noto e sicuramente incredibile, non me ne voglia Jeff Beck, non mi ci accosto assolutamente, però insomma l'ho ascoltato per così tanto tempo che... Sai che è un idolo di Maurizio? È uno di tanti idoli. Ne parlavamo. Beh, come un grandissimo, un grandissimo artista. E quindi insomma la chitarra ha preso un po' il posto di quello che di solito farebbe una voce, insomma, una melodia iniziale e quant'altro. giusto per dare un tocco di originalità e non risultare. Sì, poi la melodia banale. viene fuori la melodia, però non è una melodia che viene fuori subito al momento, perché deve prendere immediatamente. Esatto. Deve prendere con una certa lentezza, giustamente. Mm-hmm. Il pezzo deve svolgersi in questa maniera. Per quello la non scontatezza del pezzo nasce da questo. Io l'ho sentito così, e così abbiamo scritto sulla recensione. Era la nostra volontà, insomma, se l'hai carpito significa che o abbiamo lavorato bene noi oppure No, è proprio così. Io l'ho sentita così, cioè questo era il disegno vostro e la partecipazione è stata totale. Tu l'hai iniziato, però poi chiaramente tutti gli altri strumentisti hanno dato il loro apporto al pezzo. Mi diceva il tastierista che originariamente era un po' diverso ancora, come è stata ricostruita la batteria di Luca. Sì, all'inizio il pezzo era molto più soft, tra virgolette. Poi siccome abbiamo deciso di intraprendere una strada un po' più dura, tra virgolette. Sì, però dura musicalmente, abbiamo deciso di riarrangiarla. Quindi Luca ha iniziato a incattivire la batteria, Mirko ha aggiunto delle chitarre, il nostro Alain Caron al basso. Insomma, e io sono rimasto uguale. Tu sei rimasto uguale? No, diciamo che l'abbiamo ricantata un po' più. E l'avete ricantata? Sì, anche tagliato i capelli. Ho tagliato i capelli. Questo è importante. Però, perché l'avete ricantata? È una cosa coraggiosa ricantarla totalmente, rifarla, o no? Sì, anche perché era più o meno conosciuta nei limiti, però cioè, quella del video che è passata su Rai 1 era la versione vecchia, nel disco c'è la nuova. Però abbiamo voluto dare comunque un filo conduttore del nostro disco, per quanto i pezzi sono differenti tra loro. Sì. Perché ci sono, tocchiamo vari generi, però volevamo raggiungere un nostro sound, una cosa che fosse riconoscibile comunque, anche andando a toccare varie cose. Sì, sì, sì. E quindi l'abbiamo riarrangiata, perché quello non faceva più parte magari, essendo il primo pezzo capita che magari non ti ci ritrovi più dopo un po'. Certo, certo. Io non vi ho ancora presentati comunque, chiedo umilmente scusa perché i vostri nomi non li abbiamo ancora detti. Allora, gli Elena sono alla voce, quello che appena poc'anzi parlato, cioè Raffaele Vinaccia. Ciao. Tu sei originario da un paesino splendido. Sono nato e cresciuto a Capri e mi sono trasferito a Roma 4 anni fa. Fortunatamente per studio. Cioè, io mi ricordo che te l'avevo già chiesto telefonicamente questa cosa, che mi era rimasta in mente proprio perché sei nato in un'isola bellissima. Sì. E poi abbiamo Mirko Mancini alla chitarra e cori. Presente, ciao a tutti. Roberto Battilocchi al basso. Buonasera a tutti. Domenico La Banca alle tastiere. Eccolo. E poi c'è quello lì, come lo chiamo? Quello biondino lì. Mi è rimasto in mente. Potevo fare la foto. Però, dimmi. Parla vicino a me, Luca. Sono biondino. Sono quello che guida sempre. L'ultimo a essere presentato, ma che ho fatto? Luca Matteucci alla batteria. Insomma. Buonasera a tutti. Ma tu suoni solo la batteria o fai anche qualcos'altro? Io suono la batteria, carico il furgone, guido il furgone. Carico il furgone. No, scherzo. Anzi, su questo devo si dire sveglia che alle 2 del pomeriggio, fa tardi alle prove. Facendo tutto io. No, scherzo. Anzi, devo dire che una delle cose belle di questo gruppo è proprio lo spirito che c'è. Diciamo che anche la forte, mi permetto, poi la forte amicizia fra ognuno di noi è una cosa molto importante. È una cosa molto importante, perché comunque c'è una partecipazione, diciamo, da parte di tutti in ogni cosa. Quindi non è solo la prova in sala, ma è tutto. Per noi anche il caffè fa Elena. Quindi è molto bello, secondo me. E questo è uno spirito anni 60, Luca, tu sei giovane. Dimmi. No. Cosa che Luca non ha mai offerto. Ah, non ha mai offerto. Però è uno spirito che si usavano nelle band degli anni 60, sai, i poteri dei fiori, quindi la West Coast. C'era proprio quel spirito di gruppo, i famosi concerti di 7, 8, 9 ore che facevano i Grateful Dead. A noi quindi, questo piace molto. Quello è importante, lo spirito di gruppo, perché un pezzo come diceva giustamente Mirko, non si può fare da solo, non c'è Mirko o c'è Luca o c'è qualche altro che crea il pezzo, siete tutti quanti che create il pezzo. Questo è importante, è fondamentale per una band, perché si cresce assieme, non si cresce uno solo. Certo. No, comunque essere amici è importante anche per litigare nel modo giusto. È giusto, già litigare nel modo giusto, per crescere bisogna litigare. Appunto, perché se non fossimo amici, da mo che era No, beh, ma se mantieni sto scherzando, no, comunque... Certo. Il fatto di essere amici è la prima cosa, anche perché cioè, finito le prove non è che ci salutiamo e ce ne andiamo, cioè, no, se avete sempre questa umiltà e questa amicizia credo che farete molta strada, insomma, perché se poi, speriamo, no, perché se poi qualcuno dice ma a me non piace così, piace quella, cominciano i primi litigi, poi è finita, cioè, poi si spacca. Ne ho saputo uno ieri sera di un gruppo che poi te lo dirò magari in privato, Maurizio, che sì, me l'ha detto un Gianluca. Sono rimasto veramente male perché erano, poi tra l'altro sono, è una band che sono venuti qui di Firenze, insomma, cioè, sono bravissimi e si sono lasciati appunto perché non davano d'accordo, l'invidia interna. Sì, no, capita. Mi sento di dire una cosa, sinceramente. Dimmi. Anche a livello musicale noi ci troviamo parecchio, quindi obiezione. Obiezione. Respinta. Diciamo che litighiamo spesso per colpa di Mirko. Ah, ecco. La verità è che litighiamo talmente tanto spesso che ormai non ci facciamo più caso, è la normalità. È un litigio continuo. Vabbè, insomma, visto che avete una partecipazione così unita, ce la volete far sentire dal vivo questa partecipazione così unita? Ci fate... Va bene. Cosa ci fate? Volevamo... Ah, vado io. Ok. Sì, questo è il mio compito. Volevamo iniziare con un pezzo che nel disco è molto rock, però ve lo seguiremo stasera dal vivo, piano e chitarra e voce. Si chiama Chiudi quella porta ed è un pezzo che parla d'amore, parla di un amore forte, un amore maturo, un amore non solo magari mentale ma anche fisico alle volte, perché come dico sempre, cioè, credo sia capitato a tutti nella vita di voler chiudere una porta, lasciare tutto il mondo fuori e godersi l'attimo, quindi a voi chiudi quella porta. Che belle parole. Siete pronti? Noi sì. Blu Radio Sera. Chiudi quella porta, chiudi amore e lascia dentro questa nostra vita fatta di domande, di risposte, fatta in modo che non sia finita. Mettici le ore, il rispetto, metti tutto, tutto quanto dentro, come le parole, semplici parole, troppe volte rimaste sole. Amore, pensami per non lasciarti mai. Baciami, sei bella come sei, amore, stringimi, io sento che ci sei, toccami, sei tutta la passione dentro di te, dentro di me, voglio avere. Ricordati gli sguardi, le 100 tenerezze, il tuo maglione perché dopo hai freddo, le corse in motorino, le ombre della sera e un po' di cielo quando il sole lieve. Senti le emozioni, ascolta le ragioni e non far finta di mandarmi via. È tempo ormai che il cuore trasformi il suo timore, in quel momento noi saremo soli, amore. Pensami, poi fidati di me, baciami, sei tutta la passione dentro di te. Senza perdere un attimo, di amore che non torno indietro. Le cose sulla strada cambiano i colori. Forse era aprile, forse era fuori. Ritorna la mania di chiedere perdono, ma dopo resti sola e solo anch'io. Se fosse la mia vita, se fosse tutto il resto, vorrei poterti dare tutto. Adesso. Meraviglia, da applausi veramente. Bravi, sì. Bravi. Grazie. Che bello, ho che bello. Ho dimenticato che c'era anche il basso. Sì. Ogni tanto c'è. Ogni tanto c'è. E se c'è qualcuno che volesse criticarvi in qualcosa, chi dovrebbe essere questa persona che vi potrebbe criticare? Io. Beh, tu. Il mio insegnante. Il bassista. Tutti. Noi pensiamo che le critiche, fin quando... sono, oh, non voglio dire sempre la stessa cosa, sembra quando vai in un reality e dicono no, perché le critiche devono essere costruttive. Però è una cosa vera, perché fin quando non si arriva all'offesa, certo, la critica è costruttiva. A me, cioè, chiunque può dire non mi piace, non mi piace, ma dando una spiegazione, un motivo magari, no? Certo. Il genere, non mi piace il timbro, come suona il piano, non lo so, qualsiasi cosa. Glielo posso chiedere a una persona? A Roberto. No. Mauro, posso chiedertelo a te? Come no, certamente. Eccolo! Ciao, benvenuto. Buonasera, ciao a tutti, ciao. Ciao Mauro, dimmi. Come stanno i miei ragazzi? Guarda, sono un'autentica forza della natura, sono simpaticissimi. Io lo so, li conosco bene. Hanno scritto anche sul disco che devi portare pazienza, quindi insomma... Pronto? Mi senti? Come sì, adesso ti ho ripreso, dimmi. No, ho detto, hanno scritto anche sul disco che vi ringrazio per la pazienza che portate, insomma. Sì, è vero, però sinceramente non c'è neanche tanto bisogno di pazienza, perché sono degli ottimi musicisti. No, guarda, adesso, a parte il tutto, è veramente stato un piacere lavorare con loro, perché tutti e cinque sono di altissimo livello. Cioè, io poi sono tanti anni che faccio musica, ho fatto il produttore ma per altre cose, facevo metal, figurati. Mi trovo nel pop rock e mi ci trovo benissimo con loro, perché è veramente, veramente bello lavorare con loro, ecco. Adesso io l'ho detto, mi rimangerò tutto quando torno a Roma, però ormai l'ho detto. Non hai niente da criticare? Come no? Beh, certo, qualcosa c'è sempre, perché bisogna migliorare, però devo migliorare anch'io, guarda, ecco. Figurati, quindi cioè, tendiamo tutti alla stessa meta, certo. sappiamo che è difficile, sappiamo che sarà una lunga strada, tortuosa e veramente irta di difficoltà, però ce la mettiamo tutta, noi per primi e loro anche, io tu, lo so. Mauro, tu la conoscevi questa versione unplugged, acustica di questo pezzo, o no? È una cosa sconosciuta anche a te? Allora, quando loro la stavano provando, io ero in regia a fare anche altre cose, quindi l'ho soltanto ascoltata distrattamente. E devo dire che anche Unplugged funziona, cioè è un bel pezzo. Sì, esattamente. Loro l'hanno resa ancora più bella quando l'hanno arrangiata in forma rock, però devo dire che Unplugged funziona, ecco, un bel pezzo. E poi c'è Luca. Però io non faccio testo, perché capisci, faccio parte della situazione, quindi faccio poco testo. Gli ascoltatori non lo devono dire gli altri. Gli ascoltatori non lo vedono, Mauro, perché non c'è le telecamere, però c'è Luca che dava il tempo, non ha suonato in questo pezzo, ma dava il tempo, si muoveva, dava il tempo a tutti gli altri. È una cosa interessante è che il batterista ha sempre il tempo, c'è poco da fare. Tu dai il tempo anche non suonando. È una cosa positiva, secondo me. Il gruppo si manifesta anche in questo. Ma loro sono molto uniti, eh? Loro è veramente un gruppo vero. Dai, bassista, dimmi cosa volevi dire. Vieni, no. No, che lui dà il tempo, ma è il primo che non va. C'è la presa in giro. Guarda, questo gruppo funziona, che più ci prendiamo in giro e più siamo contenti. No, però è vero. No, è vero, sì. Cioè, io per terra il telefonino non vedo. Poi c'era Domenico che ha dato il corollario con la tastiera, e Mirko che ha significativamente dato degli accordi, e poi Luca con il basso, chiaramente, poi c'era la voce di Raffaele, e tu hai dato il tempo, cioè hai fatto parte sempre del pezzo, nonostante che tu non davi l'impulso ritmico. Ma cosa loro ci provano sempre a tenermi fuori, ecco, ti provano sempre. Ma questa idea era nata proprio così, fuori te, e loro dovevano suonare quando avete detto di... No, in realtà no, è stata una cosa del momento. L'avete costruita nel momento questa versione, sì. A Plagate? Ah no, la versione... Parla vicino al microfono. Eccomi, scusa. No, questa versione in questo momento, tu non suoni praticamente. Io non suono, e l'avevamo deciso che non suonavo perché... Diciamo anche la difficoltà di portare tante cose. Ah, ho capito. Fino a qua. Però no, era stato deciso di farla così perché anche nel brano, anche nella versione rock che è sul disco, c'è molto pianoforte. Sì. Allora ci piaceva portarla in questa maniera. Infatti su altri brani più tardi suonerò. Sì, beh, certamente. Assolutamente suonerai. Però no, ecco, la cosa di portare il tempo mi è venuta adesso, insomma. Non era preparato. La cosa divertente è che lui è convinto che noi lo guardassimo. Ecco, è quello il motivo. No, io sapevo che mi guardavano le telecamere, allora non sta così. Mauro, ci sei? Sì, sono qui. Ma in studio come sono? In studio sono un po' disciplinati, un po' no. Però ripeto, insomma, sono degli ottimi musicisti, quindi mi piace stare con loro. Ecco. È stato veramente interessante. È stato faticoso? È andato via tranquillo, liscio, insomma. Oddio, sai che c'è Agostino. Le cose nascono e poi prendono una certa strada. Nel senso che il disco doveva essere di un certo tipo, poi nel corso del lavoro è diventata anche un'altra cosa, anche un pochino più roccheggiante, perché non volevamo essere il tipico gruppo pop, adesso non faccio nomi, però non volevamo fare le solite cose. Speriamo di riuscirci, perché non è facile tutto qui. Comunque sono per esempio le linee di basso, io adoro il mio Roberto, per me è un figlio anch'io mio. Ti adoro, Mauro. Noi siamo della Roma. Per quello. No, quest'anno è meglio non parlare. No, non parlo perché poi siamo romanisti buoni, nel senso siamo persone tranquille tutti quanti. Roberto fa delle linee assolutamente di altissimo livello, a me piace tanto come suona il basso Roberto, però mi piacciono tutti, perché per esempio Domenico lo chiamo il maestro. Luca per me ha fatto dei progressi incredibili, secondo me, cioè, Luca basso e batteria sono un treno quando suonano, i ragazzi sono fortissimi dal vivo. Infatti abbiamo ascoltato una canzone e ci hanno già emozionato, anche se non c'era molto percussione, ma comunque la canzone in sé, come l'hanno fatta dal vivo, è veramente molto bella, molto piacevole. Ma loro nascono come band live, loro sono una band live, cioè loro rendono molto di più live che sul disco, e questa è la mia impressione. Poi chiaramente sta la gente a giudicare, per carità. La prossima volta vi apriremo tutta la radio e vi portate su tutta la strumentazione e ci suonate con tutte le cose immaginabili possibili. Molto volentieri. Mauro, ti hai dato in dote tua moglie qui. È venuta. Sì, c'è la signora. C'è la signora. La produttrice. Se vuoi te la passo, se dovete dirvi qualche cosa, non lo so. Tutto bene, a Roma tutto bene. A Roma tutto bene. Vieni qua, Roberto, vieni a salutare Mauro. Ciao Mauro, Agostino mi vuole far parlare per forza, ma io non voglio, lui lo sa. No, dai, che sei abituato, puoi farlo. Insomma, sei non in grado. Tanto. Tranquilla. Vabbè, comunque saluto tutti gli ascoltatori di Blu Radio Veneto e qui chiudo, passo e chiudo. Mauro! Che dizione perfetta comunque, cioè guarda, è una cosa pazzesca. Sei riuscito a farla parlare. Hai visto? Beh, l'ha fatto per me, non poteva dirmi di no, insomma. Va bene, Mauro, noi ti ringraziamo di questa partecipazione. Scusaci se ci abbiamo interrotto, se stavi lavorando. No, non c'è problema. Ma è stato veramente un piacere. Veramente non hai corso questo rischio. Loro ti garantisco che loro non sapevano niente, solo tua moglie lo sapeva, insomma. Immagino, grazie. E visto, visto che sta. Niente, figurati, Mauro, visto che è stata una cosa bellissima, io direi di far ascoltare, bellissimo. Va bene, d'accordo, io vi ascolto tramite radio. Allora, lo facciamo ascoltare e poi magari ne parliamo di questa canzone. Va bene, okay? Ciao Mauro. Ciao Mauro. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao a te. Immagina la notte che fa male. Immagina che niente stare bene, immagina che nulla è più vicino, io volo. il resto rimane appeso a un palo, tempo perso. Se urlo tra un milione, anime ragione. Se inchiostro e puoi riscrivere, se vuoi, la vita. Credici ancora, credici adesso. Niente più niente, cosa è successo? Santa radica del mondo, io non confesso. E a volte pensi, meglio andare via. Ma non mi sono arreso, e intanto resto a chiedermi chi è che ha perso. Adesso credici ora, liberamente, troppo rumore, salta il governo del mondo, quanto dolore. Senza me stesso rimango sordo, non cancellare anche solo. Gente che va via, bellissimo averti accanto, bellissimo ascolta il mio canto, bellissimo questo è bisogno di te, bellissimo zaffiro altero, bellissimo averti davvero, bellissimo la libertà che non c'è, bellissimo. Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo sentito bellissimo questo nuovo singolo da parte vostra. Io parlavo con Mirko e con gli altri a microfono spento. È tuo amore per Jeff Beck, c'è poco da fare. L'inizio è sto giro, è sto riff. È Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff Beck. Jeff Beck, Jeff Beck. Io no. Però, cioè, però insomma, non l'ispirazione, questo collegamento ideale, perché c'è qualcosa di male. No, no, ma mia è una speranza, anzi. Più assolutamente. Uno è un artista incredibile, cioè, anche se ha fatto delle cose. Delle cose ha fatto. Vabbè, anche a gusto, alcune cose possono piacere. Esattamente. Quindi questo riff iniziale l'hai pensato così? L'ho pensato, insomma, è uno di quei riff non proprio moderni, perché ultimamente non è che si entrano tante canzoni che cominciano con un riff di chitarra. No, ce ne sono poche, francamente. Quindi, cominciano con qualcosa d'altro, per accaballeare subito, a prendere immediatamente l'ascoltatore. Un po' così, furbescamente possiamo dire questo. Sì, ce ne rendiamo conto, insomma, vedendo trasmissioni come Sanremo, oppure semplicemente ascoltando radio di commerciali, dai, tra virgolette, di largo consumo, esattamente. Ma non c'è niente di male, però scelta. Voi avete fatto quella scelta là, di fare un riff iniziale che non è scontato, ecco, esatto, per ritornare al discorso di prima. Insomma, c'è luce un po' per tutti, poi tocca a Luca con sta batteria che deve forza fare rumore. Parla vicino al microfono, per favore. Deve fare rumore, Luca, devi fare rumore per forza, ma è così oppure no? Ma io... diciamo che a volte capita di fare le prove di mattina. Le prove di mattina le fanno loro, perché quando arrivo io, se suoni un tamburo, una cosa sola... T'ammazziamo. No, non è, no, aspetta, presto, aspetta. Allora, non è diciamo che facciamo... poi dal pomeriggio Ti è caduto il microfono. Sì. Facciamo le prove di mattina, lui arriva, e come ogni buon batterista, che si, perché chiunque, la chitarra suona, no? Passano il volume, tutto bene, lui sul rullante, no? Alle 10 del mattino, non è proprio carino, no? Cioè lui, aspetta, mi devo scaldare, però caldati sul pad, no? E comunque. Pad ce l'ho a casa. Insomma, dai. Sei tremendo, insomma. Ma questo è quello che loro vogliono far apparire. Sì. Ma in realtà io non sono proprio così. Però diciamo che è così. Di solito lui la mattina non c'è proprio. Poi di solito io faccio tardi. Però. Ah, ecco. Questo è... E poi la mamma si arrabbia, papà anche. No, più che altro il bassista. Ah, il bassista. Spesso e volentieri. Perché lui è molto puntuale. Certo, lui ha bisogno di te e lui, tu hai bisogno di lui, chiaramente. Però sto lavorando molto su questa cosa. Sì. Di arrivare in orario. Confermo. Che dopo che abbiamo quasi sciolto il gruppo per i miei scherzi. Però insomma, diciamo che ecco, vedi, anche questo di cui parlavamo prima, c'è stato un grande dibattito per questa cosa. Allora io vado a letto prima, arrivo prima alle prove, allora è sempre una soddisfazione. Mo quando io arrivo prima di lui è una cosa proprio fantastica. Capitato una volta in due anni, però è capitato. Va bene, Maurizio, mi chiedevi prima che volevi parlare. Sì, volevo continuare il discorso di questo singolo, di questo pezzo. Abbiamo parlato di questa chitarra e poi come si è trasformato, come si è sviluppato, come si è allargato. Come si è sviluppato? Questo è stato un po' particolare come brano, perché è stato forse il brano che ci ha portato verso altri lead. Insomma, prima di questo avevamo pensato pezzi in una chiave forse molto più pop di questo. Quindi aveva ragione Mauro al telefono prima. Da questo in poi abbiamo cominciato ad aggiungere cose, senza esagerare, però aggiungere suoni nuovi, magari piuttosto che un organo Hammond oppure un pianoforte, che comunque sono presenti anche dei suoni elettronici, di synth. Ma Domenico era d'accordo con i suoni elettronici? Domenico è stato d'accordo per forza di cosa, altrimenti sarebbe stato gambizzato. Se la democrazia vince e impera, chiaramente. Sì. Il nazismo è presente in questo gruppo alle volte. Però dimmi Domenico. Io devo dire una cosa. Dimmi, purtroppo, essendo di Parpoliano di nascita, l'organo è uno strumento che, per quanto mi riguarda, io metterei a tutte le parti. Beh, l'organo serve sempre in una band, o no? Però io qua, dimmi. Pezzo del brano, dove io ho fatto una citazione, vediamo se... Non so se voi la sapete, non ce lo dire, non ce lo dire. C'è una citazione a un brano famoso dei Deep Purple. Che si chiama? I Quest Star. C'è una parte del solo di John Lord, io ho provato. Quante volte hai sentito i dischi di John Lord? Con i Deep Purple o senza? Io ce l'ho tutti, quindi insomma. Quello senza, quando faceva gli esperimenti suoi con la Dando Symphony Orchestra. Made in Japan è finito. Beh, Made in Japan sono d'accordo con te, ma quando John Lord faceva quegli esperimenti da solo con la Dando Symphony Orchestra? Ma io ho visto un documentario dove lui, il solo di Highway Star, l'ha registrato una volta. Ha fatto quello, basta. Perché lui era amante, lui lo dice, lui era amante del fatto che i soli in generale si registrano una volta, perché poi... Registra su. E poi col periodo che c'era prima, certo, insomma, non c'è quella digitalizzazione di adesso, uno copia, incolla, è molto più semplice adesso. Magari, non è il caso. Lui, ecco, questo è la solo più famoso della storia del rock, chiaramente. Quello l'hanno Spoken and Water, esatto. Sì, l'hanno imparato tutti. Questo, chiaramente, che bene o male, però lo dico. Praticamente si dice che a New York c'è un negozio, certo, di è vero. Sì, dove hanno preso, c'è una chitarra. Se non sbaglio, dove tutti quando arrivano provano Spoken and Water. È verissimo. È giusto, hai perfettamente ragione. È verissimo. Documentario dei Deep Purple, non si scappa. No, è vero. È verissimo. C'è un piccolo dibattito per chiudere un attimo il discorso di John Lord. Lui è fortissimo, poi ha avuto anche un problema, insomma. Sì, esattamente. Però, proprio per dire, a me questi tipo di tastieristi anni 80, 90, a me fanno impazzire. Infatti, molto spesso mi ispiro, tra virgolette, sempre a loro. Da lui, Greg Filling Gaines, tassista, Michael Jackson storico, insomma. Sono loro che ti danno ti guidano, dai. Però gli abbiamo fatto comprare la tastiera Synth, il Mac, e quindi adesso butterà l'organo. No, l'organo non lo butterò mai, secondo me. Ma però siamo noi i primi. Sì, certo. Insomma, Bassista, dimmi qualcosa, visto che tu rispetti gli orari o sì, la puntualità. Il basso, che importanza ha una band? Una band è un'importanza fondamentale, la sezione ritmica, il basso e la batteria. Sì, batteria e il basso. Sicuramente, che, grazie a Elena, diciamo, ho avuto la possibilità di far uscire un po' fuori dagli schemi il basso. Il basso. Senso... Diceva Mauro che ama particolarmente il tuo giro di basso. Ma innanzitutto ringrazio Mauro. Ripeto, sono voluto uscire un pochino dagli schemi perché il basso è conosciuto come il portatoniche. Diciamo, vero, no? Il portatoniche, quello che non si scolla mai dalla batteria. Magari come a riuscirci, dico. Come dovrebbe essere. Diciamo che mi hanno concesso un po' più di spazio, tant'è per esempio in Dimmi che non c'è quasi una linea melodica quello che fa il basso. Sì. E niente, quindi no, sono contento perché ho diciamo, parecchia libertà d'azione sotto questo punto di vista. Però non nascondo che ovviamente alla fine sempre là devo rientrare, perché se no il basso poi esce troppo fuori dagli schemi e diciamo finirebbe per rovinare l'arrangiamento e non supportare. Sì, ma in questa band, essendo gruppo, ognuno ha il proprio ruolo, quindi non c'è una prevaricazione, secondo me. Cosa dici? No, infatti ognuno ha il proprio ruolo, però ovviamente tocca riconoscere quando è che bisogna usare e quando è che bisogna rimanere nel proprio seminario. Abbiamo citato i Deep Purple, salutiamo la Martina, che ama particolarmente i Deep Purple. Ciao Martina. Ciao Martina. Ok, adesso facciamo... E salutiamo anche la Patrizia, che ci fa le foto. Vi fa le foto esattamente, che poi vedete e ringraziamo anche Roberta che ci sta. Io sono tornato da donne, tu sei con gli maschietti. Sì, io sono la fossa di leoni con i maschietti. Cosa suoniamo, ragazzi? Posso dire due parole su Bellissimo? Certo, come no? Il nostro secondo singolo, abbiamo girato il secondo videoclip sempre con i registi di Dimmi che non c'è, perché ci sono piaciuti tantissimo, quindi Daniele Coluccino e Matteo Bodrugna hanno continuato a lavorare con noi. Lo trovate su YouTube, sul nostro canale Elena Band, su Facebook Elena Page e tutto quanto, dove scrivete Elena con la H davanti e la seconda è accentata, siamo noi. E Bellissimo parla della libertà, che è sempre un tema molto attuale, e niente, quindi se volete andare a riascoltare la trovate in giro. E che è quella che sta girando adesso. Sì. Che poi l'avete presentata con quel trailer, tra virgolette, molto inquietante. Sì. Sembrava che fosse un film un po' giallo. Sì, perché diciamo che i nostri registi sono registi cinematografici, e quindi ci danno una grossa mano quando giriamo i videoclip, fanno delle storie molto interessanti. Delle storie, cioè una cosa fatta in una certa maniera. Sì. Beh, molto bello. Allora cosa ci fate ascoltare adesso? Adesso vi facciamo ascoltare un pezzo che si chiama Tutto da rifare. Questo pezzo è uno di quelli che ha portato Mirko, già fatto. Voi l'avete modificato? Sì. Luca ha preso le bacchette, quindi. Luca ha preso le bacchette. Questa volta suoneremo tutti e Luca porterà il tempo col piede. E se Mirko vuole dire due parole sul pezzo o dopo, non lo so. Magari le diciamo dopo o adesso. Come volete voi. No, diciamo dopo, dai, suoniamo. Diciamo dopo. Siete pronti? Pronti. Stretti per mandare giù le cose che ho da dire, paura e delusione, questa sensazione che ho di essere distante dalla mia generazione. Quello che conta per me è sorridere comunque, anche se negli occhi non c'è luce, nel cuore non c'è pace e nelle vene c'è la rabbia di chi osserva e tace. Quello che conta di più è tenere chiusi gli occhi e non guardare giù e non far caso al vento, perché il coraggio di volare ce l'ha solo chi è caduto troppe volte per provare dolore. Non ti basterà fingere allegria. Servirà la tua fantasia. È inutile chiedere tempo se il tempo non c'è. E come accettare che non è più tempo per me, che è tutto da rifare. Quello che conta di più è tenere chiusi gli occhi e non guardare giù, e non far caso al vento, perché il coraggio di volare ce l'ha solo chi è caduto troppe volte per provare il dolore. Quello che conta in realtà è stare in equilibrio tra bugie e verità, per dare un senso al tempo che perde impacchettare stupide parole, per sembrarti qualcun altro, per sembrarti migliore. Pezzo molto bello. Bello, complimenti veramente. Bravi ragazzi, bravi. Bravi. Possiamo dire che ha due chiavi di lettura questo pezzo, una chiave di lettura melodica e un'altra chiave di lettura leggermente progressive, perché in qualche momento tu, stop and go, le fermate che fa Luca e riprendi, qualche momento di progress, è vero Domenico secondo te? Tana per me. Io l'ho sentito così, non so se sei d'accordo. Qualche istante, qualche momento in cui fai un po' di inquietudine con i tasti del piano e dai un po' del progressive. Perché il pezzo è arrivato, quando è arrivato lui me l'ha fatto ascoltare, dava un po' di inquietudine. Nella versione del disco, in mezzo quella frase di piano è fatta con un synth. Sì, qua lo fai con il piano però, assolutamente, sì, quello che hai in questo momento. Facciamolo sentire di nuovo. Dai, fammelo sentire un momento. Sì, questa qua. Questa scala, stai facendo una scala, scala tipica, secondo me, momento progressive c'è. Sì. Non è mica una cosa negativa. E soprattutto il momento progressive è dato dal suono. Sì, dal suono, sì. Che col suono. Piano è una frase, tra virgolette, il suono del piano è molto scontato, certo, nella sua bellezza. E poi bello anche il discorso del momento del gioco a cappella che fate qua in questo pezzo. Questo è stato proprio, la versione nasce acustica, quindi dobbiamo farla così, era l'unico modo per uscirne, perché sennò live... la facciamo io e Mirko con dei suoni io strani, lui con la distorsione. Cioè praticamente insomma, tutto quello che noi abbiamo fatto con le voci. Quello che stiamo facendo live è tutto rifatto. Con le voci a cappella sono la frase di chitarra. Esattamente. Ho capito. Beh, interessante, significativo. Dobbiamo ribadire il discorso ai nostri ascoltatori. Qui siamo un live acustico, non è semplice, certo, uno che fa rock. abbastanza energico in alcuni momenti, rimetterlo, riprenderlo in versione acustica. Difatti è inizio, uno sforzo. Difatti inizio è stato no. Però l'acustico, vedi, oh mio Dio, come, l'acustico. Ma si cresce, però, come avevamo detto prima. Però in realtà poi una volta che ci siamo trovati in sala a lavorare sull'acustico ci siamo divertiti veramente tanto. State divertendo anche noi, secondo me, in questo sì, momento. Problema, è la prima esperienza vostra questa in acustico della radio. Secondo me il problema degli acustici è proprio il fatto di prendere un pezzo che magari è di Mirko, lui lo sì. sa, però con tutti, è pure nostro, ci abbiamo messo mano anche noi sopra, riprenderlo e stravolgerlo magari è come una violenza. Sì, ho capito. Uso termine un po', però è quello. Però poi se il risultato è questo e piace, va certo. Agostino, parliamo dell'etichetta, l'importanza che ha avuto l'etichetta per la band. Beh, le... dico io? Sì, dai, vai. L'etichetta... Tanto diciamo che etichetta è, come allora, si chiama l'etichetta? Si chiama Legend Studio. Esattamente. Che non è solo un'etichetta, però anche una... vi ha portato avanti. Praticamente, cioè, incontrare queste persone, i proprietari del Legend Studio, e iniziare a lavorare con loro quando ci hanno proposto di fare un gruppo originale è stata... una gran bella botta di fortuna. Una sfida, una botta di fortuna. Sì, perché cioè noi di ragazzi ne conosciamo tanti che vogliono fare quello che facciamo noi. Certo. Le sale prove hanno un costo, registrare il disco ha un costo, girare dei videoclip ha un costo. Certo. E invece a noi, per grazia ricevuta abbiamo incontrato queste persone che ci hanno messo a disposizione tutto il loro studio, le sale prove, qualsiasi ora del giorno e della notte. Mauro durante le registrazioni è stato con noi 24 ore su 24, perché tra l'altro oltre ad essere il nostro produttore è il nostro fonico, quindi abbiamo lavorato insieme, magari perdendo anche altri lavori, però si vede che ci tengono. Certo. Noi diamo il massimo, perché... di questo te lo posso garantire, perché Roberta si è confidata spesso con il sottoscritto, mi diceva che ci dà veramente anima e corpo. Sì, sì. Ed è una cosa bella, perché non capita tutti i giorni di... io parlo anche personalmente, ma anche Domenico, ne parlavamo l'altra sera in macchina, magari di trasferirsi dal paese e trovare qualcuno che crede in te in una grande città, no? Poi avendo trovato dei compagni d'avventura speciali come loro, vedere che almeno la difficoltà economica nell'affrontare il progetto, certo, per noi non c'è, per loro sì. sì, però per noi non c'è, ti dà almeno ti toglie un pensiero, cioè ti riesce a dedicare di più alla musica. Questa frase di trasferirsi nel paese mi viene in mente Lucio, il grande Lucio Battisti, anche lui è partito dal paese, è andato a Milano, che non conosceva nessuno, poi ha conosciuto il batterista di Dick Dick, e la madre del batterista di Dick Dick le preparava da mangiare a Lucio, lo sai, no? La storia è questa. Vabbè, questa è, si trasferisce dal paese arrivare nella grande città. Voi siete arrivati dal paese a Roma. Sì, chi abita che è a più grande di Roma, non c'è, insomma. Poi no. C'è una cultura musicale vastissima. Sì, quindi... sì, sì. Quindi noi abbiamo pescato molto come radio anche lì, come il New Disorder, come ti dicevo prima, oppure gli Viola Polvere, insomma, sono passati per di qua. E c'è veramente molta musica in e gamba. Quindi, cioè, oggigiorno avere un'etichetta è veramente come avere un santo in paradiso. Cioè, è rara come Beh, cosa. Se loro ci credono in voi, vuol dire che ve lo meritate. Sì, speriamo. Dai, visto i risultati, ma insomma, sì, poi, sì. Insomma, la prima prova avete già vinto il concorso, su 1500 video, insomma, voglio dire, è una grande bella soddisfazione. Sì, sì. Posso dire una cosa? 1500 video in tutta Europa. Ah, oh. Lo doveva dire. Vabbè, oh. Spariamoci le pose. Sì, esatto. Tutta Europa. Allora siamo arrivati primi. Abbiamo vinto anche all'Heineken Jamming Festival. Possiamo dire. Diciamo tutte le cose. Parco le diciamo. San Giuliano, com'è stata quella? Che ogni tanto fantastico. Sembra di tirarsi. Dimmi, raccontatemi del Parco San Giuliano l'anno scorso. Un aggettivo. Fantasmagorico. Cinque aggettivi sotto fantastico, superstar fantastico, no fantastico, fantastico, vai fantastico. Mirko, io uno superstar no è vero, questo è vero, ci siamo sentiti un po' superstar a Parco San Giuliano, perché è stata un'accoglienza spettacolare, cioè a parte il palco fantastico, la gente fantastica, il trattamento è stato proprio, noi siamo arrivati lì, come siamo arrivati ci hanno presentato i nostri I rudi personali per ognuno di noi, quindi è stata proprio una cosa, siamo arrivati là da Roma col pulmino al caldo, chi dormiva, chi è, ci siamo svegliati e ci siamo trovati praticamente in un teletrasportati proprio in un albergo di lusso, albergo di lusso, in una giornata che è stata veramente, posso veramente dire, titolo, essere veri per un giorno. Essere veri, è vero, è vero. Stata una giornata fantastica. Io mi ricordo come la faccia di Luca, che è stata, cioè io avevo fatto una fotografia quando ha visto il Rodi, il ragazzo che dal furgone ha preso la roba della batteria e gli montava i piatti. E lui, la frase, posso dirla come l'ha detta lui? Ma che davvero? No, ma io poi sono anche un po' geloso, ho detto no, guarda, faccio io. Non so, come te li metto? Ma che ne so, me li metto a me. La stessa frase l'ha detta Domenico quando ha visto che davano la birra gratis. No, è stata una cosa fantastica. Tra abbiamo avuto la fortuna di vedere anche l'ultimo concerto, cioè un concerto dell'ultimo tour di Vasco, visto sotto il palco, perché noi avevamo i pass, certo. Quindi passavamo dappertutto, cioè è stata un'esperienza incredibile, qualcosa di spettacolare. No, è stato incredibile anche perché abbiamo suonato il 9 giugno, no, era il 10 giugno, poi l'11 mattina siamo partiti, siamo andati a Milano, perché la giuria di qualità del contest di Ligabue ci aveva selezionato. Quindi siamo andati a fare la finale lì, siamo tornati indietro col pass, abbiamo visto Vasco da vicino. Io che ho visto 7 volte, è stato l'ultima tournée, a parte lui, vabbè, insomma, poi però è stato bellissimo, bellissimo. Facciamo un break musicale anche per far ascoltare questo disco, no? Questa arena, insomma. Ricordo che questa è Blu Radio Veneto, la vostra emittente preferita in questo preciso istante. Questa è la voce di Agostino Spolaore che con Maurizio Calzavara sta cercando, come dico sempre, di farvi conoscere l'artista o gli artisti che si cimentano qui dal vivo in acustico nei nostri studi. Questa sera abbiamo una band che viene da Roma, si chiamano Elena. Sono 5 simpatici ragazzi, li ricordo i loro nomi: Raffaele Vinaccia alla voce, Mirko Mancini chitarra e cori, Roberto Battilocchi il basso, Domenico la banca tastiere, Luca Matteucci alla batteria. E ci presentano questa canzone che si chiama la numero 6. Scomodo. Sforzo e rido, ora mi impegno e rido. In tutto questo non somiglia a quella della foto. Parliamo delle scarpe, del tuo profumo nuovo, della tua amica che 2 anni fa ti rubò l'uomo. Parliamo di Raul Bova, di Cluny e la Canalis, di quanto sia più conveniente far la spesa a Todis, della tua piastra nuova, del mondo che va male, del presidente del consiglio e delle sue. Fai passare la voglia di respirare tu, mi fai passare la voglia di bere e di mangiare, mi fai passare la voglia di dialogare tu, mi fai passare la voglia di disco? Mi sento scomodo, oserei dire anacoristico. Sta male, dici che vuoi andare, lo sai che c'è, che la speranza è l'ultima a morire. Lo so che sei speciale, lasciati consolare, facciamo pace, tu lo sai quanto ti voglio bene. Ho rovinato tutto, è solo colpa mia, mi son lasciato trascinare dalla mia euforia. Se ci ripenso mi vergogno di ogni mia parola, ma nel mio cuore sei da sempre l'unica e la sola. A dirla tutta, ad essere sincero, non proprio tutto quel che dico corrisponde al vero. Ora sta a te capire, scegli la tua versione. Mi preferisci con la giacca o con il pannolone? Sei bella come il mare, mi fai sentire bene, come abitare accanto ad un reattore nucleare. Smettiamo di giocare, mi voglio innamorare. Cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Sento scomodo, oserei dire anacronistico. Tu mi togli, vuole senso pratico. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Blu Radio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ho visto una discussione animatissima poc'anzi, Maurizio, cosa c'è? Sì, parlavamo dei concerti, parlavamo di musicisti, ma adesso mi sono fermato un momento sulla solo di Mirko e abbiamo detto una frase che non si può dire in radio adesso chiaramente, però è un bel assolo corposo, Mirko. Sì, doveva essere piuttosto diretto perché breve per quanto mi riguarda, poi ovviamente da chitarrista te lo dico, perché per me il solo dovrebbe durare la metà della canzone, però insomma, ovviamente da ascoltatore non è possibile. E lo faceva Peter Frampton questo. Esatto. Sono d'accordissimo con Peter Frampton. E com'è che faceva Peter Frampton? Adesso me lo ricordo. No, ma può farlo lui. Te lo ricordi il pezzo? Sì, si ricordo. È un pezzo famosissimo. Mi troppo. Me lo preparavo. Ecco. Dimmelo. Allora, a casa gli Elena cosa ascoltano? Allora, adesso c'è il voglio tirare, posso tirare fare una piccola chicca degli Elena. Allora, diciamo che negli Elena c'è allora, noi litighiamo sempre, questo no, scherzo, però c'è il dibattito principale degli Elena è fra il nostro tastierista, il nostro maestro e l'altro maestro Mancini, Mirko. Perché uno è Pink Floydiano, il tastierista, e uno è Beatles, proprio Beatlesiano. Solo Beatles. E quindi tutta la giornata si svolge su questo litigio che i Beatles, ma che Pink Floyd. Vabbè, è chiaro che c'ha ragione. Ecco, vedi, è sempre la cosa più bella è che se noi proviamo a dire qualcosa, stata zitto te che ti ascolti per Jam, stata zitto te che ti ascolti Akon, stata zitto te che ti ascolti Masini. Queste sono le... vabbè, scusa. E quindi no, ascoltiamo anche, cioè i nostri ascolti ci hanno portato a comporre anche dei pezzi variegati tra loro. Il fatto che Domenico ascolta molto i Pink Floyd si sente, perché cosa ci state facendo? Non stanno giocando fra i Pink. Lo facciamo sentire. Voglio farlo in diretta. Fate stavolta. Era una sfida. È una sfida, fatela. Avete un 40 secondi per farla, dai. C'ho il colpo di coda. Sto per vincere. Ha vinto lui. E questo ce lo segniamo ogni volta che ricomincia. Però questa storia. Dico una cosa, io non rinnego i quattro capelloni. Io nemmeno. Tu rumore di pugno. Spot per noi. Ma a prescindere da questa gag, insomma, cosa vi piace ascoltare a voi? Ma in realtà parlo io? No, ognuno c'ha i suoi gusti. Una volta, dai. In realtà è, abbiamo, ognuno di noi ha un ascolto totalmente diverso dall'altro. Perché diciamo che Domenico, come diceva prima, è più anni magari 70-80. Mirko è molto a periodi. Diciamo che c'è stata la super fusion, la super... adesso è molto su il Daniele Silvestri, sia dei primissimi tempi che di adesso. Io sono sempre stato il metallaro, pezzo del gruppo, che però tramite loro, ecco, io poi ho cominciato ad ascoltare quello che ascolta Domenico, quello che ascolta Mirko e tutti viceversa. Io Robertone ne parlerei poco perché diciamo è un amante di musica particolare. No, diciamo, io sono un po' il romanticone del gruppo. Allora vai d'accordo con me. Diciamo che ho avuto una formazione prettamente pop italiana, di quella proprio, cioè? Strappalacrime. Masini? Diciamo sì, sono un amante di Marco. Vabbè, però è logico per via... cioè della mia scelta di vita, proprio non mi sono potuto soffermare troppo su questo, quindi spazio veramente su, poi tutto. Su tutto. E il nostro cantante? Io sono un po' più sul grunge anni 90, per Jam. A me quella roba mi piace molto, però loro mi hanno fatto sentire tante cosine, poi piano piano cresci e inizi a cambiare anche un po' i gusti. Certo. Quindi avete una miscellanea, insomma. Sì, però scusate se anche se il metal. Dimmi. Mi sfottano sempre, no? Sì. Ho fatto Però come passano per radio una canzone magari di Masini, come se la cantano? Ma come mai? Ormai le sappiamo tutte. Roberto, come mai il tuo amore per Masini? Un personaggio molto controverso praticamente, musicalmente. No, non parlo di vista, parlo solo di vista musicale, assolutamente. Sì, sì, no, diciamo che tutti lo conoscono solamente per le... Aiuto! No, tutti lo conoscono per tre cose. Sì, per le parolacce di pezzi. Per le parolacce, per il fatto che dicono che porti sfiga. Esattamente. E poi per le solite due canzoni che sono Vaffanculo e Bella Stronza. Esattamente. Sono titoli delle canzoni, quindi in radio lo diciamo. Insomma, non è proprio... Aspetta, Roberto ne fa l'imitazione. Fa l'imitazione. Allora, ecco questo è il... Andare in macchina con lui è come essere in macchina con Marco Masini. No, no, sì? No, non è vero. Non ci fai sentire questa. Non è vero. Dai, vai. Che faccio? Mannaggia, ma sempre che posso fare? Ci vorrebbe il mare. Ci vorrebbe il mare che carezza ai piedi. Vabbè, insomma, finiamo queste vergogne. Ci abbiamo anche Tiziano Ferro. Sì. Come fa? Tiziano. Max Pezzali. Max Pezzali, no, diciamo Pezzali, forse è il mio forte. Max Pezzali, che ci sta? Che cos'è? Mi minore. Che cos'è? Mi minore, vai. Sì. Stessa storia, stesso posto, stesso bar. Vabbè, comunque sia, mi sfottolo sempre per questa mia passione poppettiana italiana. Però alla fine sono i primi che cantano ogni canzone, che sia di Zarrillo, che sia di Masini, che sia di Venditti. Insomma, comunque dicevo, Masini, per chi non lo conosce, insomma, non ha fatto solo quello. Non ha fatto solo ha fatto anche una cover di Metallica, lo sapevi? Sì, vabbè, quella mi permetto di anch'io, insomma, mal riuscita. Però comunque sia, alle spalle ha avuto due grandissimi scrittori e poeti, come Dati e Bigazzi, certo, quindi certo. Anche i testi sono stupendi. Io ci ho scritto più che parlato con Marco in Facebook, insomma, ed è una persona bellissima. L'ho invitato a venire qui, magari chissà, detto, se mi capita più. Fammi sapere che vi raggiungo anch'io. Ah, vabbè, ma sai che viene a Padova? Viene a Padova a fare un concerto. Fa concerto, Lo vado a vedere all'Auditorium a Roma. Va bene, secondo le 22:14, siccome ci resta ancora una canzone dal vivo, giusto? Sì. Avete che due, avevamo detto due però. Dal vivo? C'è cioè una dal vivo e una dal disco. Dal disco, esattamente. No, dal vivo ne avete ancora una, giusto? Sì. Che è quella che abbiamo... Sì, la alla chicca. Fine. La chicca che regalate ai vostri Agostino fans. Però avevano deciso forse di studiare un'altra. Una cover. Qualcosina. Vediamo. Abbiamo un quarto d'ora per capire. Dai. Okay. Ci proviamo. Intanto però ci ascoltiamo... La canzone che a me piace moltissimo, te l'ho anche detto Roberta, se ti ricordi, che è la traccia numero 3. Nives. Come mai questa canzone? Questa canzone ha una bella storia alle spalle. Diciamo che parla di una ragazza che conosciamo tutti, ed è nata quasi come una presa in giro poi nei confronti di Luca, come molto spesso facciamo. Magari alla fine... ci sta ascoltando la ragazza. Sì, infatti se ci sta ascoltando la salutiamo. Ciao Nives. Ciao Nives. Che si chiama proprio così lei. E significa neve, quindi abbiamo scritto questa canzone. Giovanna. Abbiamo iniziato a prendere in giro Luca e poi da lì è nata questa bella canzone, diciamo la nostra ballata d'eccezione. Io amo le ballate, tanto per stare anche in tennis. Noi. L'ascoltiamo. L'ascoltiamo. Pensieri miei, tu che non somigli a niente, non somigli a lei, ed io che resto in equilibrio tra bugie e realtà, ancora ad aspettare neve, ma che senso ha? Neve ti sei sciolta in fretta e mi hai lasciato qui. È colpa del passato se non sai dire sì. Neve, le tue ali bianche non ti servono più. Ciò che c'era da sbagliare l'hai sbagliato tu. Parlo ancora di te. sono vivo come non sono stato mai. Senza te fa un po' più freddo e ti confesserò. È arrivato un altro sole a riscaldarmi un po'. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Siamo arrivati alla fine, ragazzi. Il tempo vola, il tempo passa inesorabile. Quando si sta bene in compagnia, vola, veramente. Vola, vola. È la classica parola. Questa è una canzone bellissima, come dicevo, che mi piace. Grazie. Allora, prima di salutarci, il vostro sito, i vostri appuntamenti. Quindi rubiamo 10 secondi per dirvi tutto. Allora, ci trovate www.elenaband.com, il sito. Poi Facebook, www.facebook.elenapage, la nostra pagina fan dove potete seguirci. YouTube, Elena Band, dove troverete anche i nostri video e tutte le ultime news. Tra l'altro, il 10 aprile il nostro disco, che si chiama Elena, uscirà in tutti i negozi di dischi e in tutti gli store digitali. Lo potete anche scaricare quindi da iTunes e vari. Poi i prossimi appuntamenti: il 4 aprile ci trovate al Jailbreak, stiamo preparando tra l'altro un tour estivo, quindi salite anche qui nel Veneto. Speriamo, speriamo, stiamo decidendo un po' le date, non diciamo niente per scaramanzia, quindi fatecelo sapere comunque. Ve lo facciamo sapere appena a poi tempo ne parlo debito con Roberta poi, sì. E ricordiamo anche l'etichetta, no? L'etichetta Legend Studio, che continuiamo a ringraziare, e la distribuzione della Self. Perfetto. Io, se mi permettete, di cuore devo ringraziare Roberta, perché anche è stato... noi, anche noi. Perché è stata di una gentilezza unica. Abbiamo installato anche un bellissimo rapporto di amicizia, al quale io sono veramente molto, molto fiero. E spero di continuare questo rapporto, Roberta. Grazie di essere venuta qui, di averci portato questa band che sta avendo così tanto successo, insomma, lì a Roma. Speriamo che faccia ancora di più. Vi aspettiamo di nuovo, nuovamente, se avete un nuovo disco magari vi possiamo strappare la promessa di venire di nuovo, sì, nel Veneto, certo, sì. Difatti credo sia doveroso anche noi ringraziarvi. L'invito per la disponibilità e tutto l'altro. Grazie mille, è bellissimo, un vero piacere. Allora, io vi do l'appuntamento a giovedì della settimana prossima. Abbiamo totalmente una musica completamente diversa. Sì, dobbiamo ricordare che giovedì prossimo è giovedì santo, quindi sarà una musica a tema. Sacra, la musica sacra, con Sabato Rossi e la sua band, il suo progetto, e avremo due ore di quella musica. questa è comunque sempre la vostra emittente, cioè Blu Radio Veneto, dà spazio veramente a tutta la musica, basta che sia fatta come si deve, con la passione e il cuore, come hanno fatto gli Elena. Agostino, vi dà l'appuntamento, dicevo, giovedì prossimo, insieme sempre comunque a Maurizio, ma prima ci sarò lunedì, se non sbaglio. Sì, lunedì con un gruppo belga. Con un gruppo belga, quindi io sono ci sarà sempre Stefano in conduzione. Esattamente. 22-23, gli Elena ci salutano con questo disco Elena, ma però prima ci lasciano con una chicca e con una cover. Sì, allora, la che poi, scusami se ti interrompo, io volevo chiedere, come mai avete scelto questa canzone? Allora, noi nel disco parlo, essendo nati come cover band, avendo fatto cover per quasi tutta la nostra carriera artistica, diciamo era un po' un ritorno al passato, però ci siamo divertiti tantissimo a riarrangiarla la canzone, perché stravolgere le canzoni forse è una delle cose più divertenti poi quando ti capita di fare delle cover. Certo. E questa speriamo che Massimo Ranieri un giorno la potrà sentire, perché secondo me magari potrà piacere. Sentita, magari. Se si è comprato il disco. No, ma non è ancora, non è ancora uscito. 10 aprile. Comunque, invitiamo Massimo Ranieri. Invitiamo Massimo Ranieri a comprare il disco, perché è inclusa la sua Se bruciasse la città. Ve la facciamo ascoltare un pezzettino, dopodiché vi chiudiamo. Deve dire qualcosa. Ah, niente. Problemi tecnici. Problemi tecnici. Giusto. Allora, e poi ci salutate con cosa? Con Dimmi che non c'è, che è la prima canzone che abbiamo ascoltato, il nostro primo singolo. Abbiamo fatto una versioncina un po'... Io direi Dimmi che non c'è, Wild Version. Wild Version. Un po' giallo. Che bella questa definizione. L'abbiamo stravolta, tanto per l'abbiamo divertirci un altro sì, po'. Sì. Va bene, allora io vi saluto di nuovo, vi faccio nuovi nomi. Sono Raffaele Vinaccia alla voce, che avete sentito poc'anzi, Mirko Mancini chitarra e cori, Roberto Battilocchi basso, Domenico Labanca tastiere, Luca Matteucci alla batteria. Ringrazio Mauro Matteucci e Roberta Petteruti, che sono la direzione artistica del progetto, insomma. E questi sono gli Elena, che nuovamente Blu Radio Veneto, a nome di tutti i suoi collaboratori, vi ringrazia di essere venuti da Roma, insomma. Grazie a voi. Grazie. Bocca al lupo per la vostra musica, ragazzi. Crepi. Prego. Il cuore mio non dorme mai, sa che di un'altra adesso sei. Tua madre va dicendo che a maggio un uomo sposerai, ma se in fondo al cuore tuo c'è un ragazzo, sono io. Ma chi l'ha detto, ma perché non devo più pensare a te? Nessuno sa chi sono io, ma il primo bacio è stato mio. Impazzisco senza te e ogni notte ti vedo accanto a me. Bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei, anche il fuoco vincerei per vedere te. Se bruciasse la città, non so, non so, tu cercheresti me, anche dopo il nostro addio, l'amore sono io. Per voi la wild version di Dimmi che non c'è. Dimmi che non c'è, non c'è niente che valga più di me. E ti sto aspettando e non vivo più, perché adesso manchi. Dimmi che non c'è, ogni tua carezza fra le braccia mie, solo una certezza che non vivo più, perché adesso manchi, manchi, manchi. Le parole, tutte le parole che non ho mai detto. Ora basta amore, basta col dolore, per poi starti accanto, per non farti male, per non farti male, per non farti male mai. Ti ho vista fuggire, ti ho vista pregare. Dimmi che non c'è. non c'è niente che sento dentro me. Ed sto lottando e non vivo più, perché adesso manchi, manchi. Cerca le parole, tutte le parole. So che stai aspettando, ora vedi amore, non ho più parole per restarti accanto, per non farti male, per non farti male, per non farti male mai. Ti ho vista fuggire, ti ho vista pregare, non riesco a pensare. Rallento le ore, deciso a fermare il tempo e l'amore, dimmi che non c'è, dimmi che non c'è, dimmi che non c'è, io t'amo più di me, t'amo più di me. Dimmi che non c'è, dimmi che non c'è. Dimmi che non c'è, dimmi che non c'è. Grazie.